sconto delle concessionarie aderenti a fronte del ritiro usato. Chiama l'800 400 300 per un appuntamento. Volkswagen Veicoli Commerciali. Il lavoro come lo vorresti. Radio 24. Libera la voglia di fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. E 13 minuti, eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, ben ritrovati, 800 24 00 24, siamo in diretta fino alle 10. Carlo, Milano Monterosa. Era buio oggi, era buio. buio. Adesso che è, non è più buio, buio cosa per, vedi per, dalla per finestra? Fare del è troppo buio per fare del meteo, credo che sarà il titolo del mio secondo libro. Però ricordiamo che tu dalla posizione in cui sei vedi la finestra che dà sulla strada e puoi capire che tempo è. Io no, vedo Carmelo Lauricella in regia. Non piove, al momento c'è della nuvolaglia, ma speriamo che svanisca. Speriamo che regga. Cari ascoltatori, stiamo insieme fino alle 10, cerchiamo un personaggio della settimana, anche oggi in palio per il primo che indovina biglietti del MUDEC per la mostra di Klimt a Milano, quindi mi raccomando, diamo subito il primo indizio. Il personaggio della settimana che ha una notizia degli ultimi 7 giorni che lo riguarda ha carattere, quindi cominciate a pensare 800 24 0024 e anche a chiamare. Parleremo anche dell'approvazione del codice antimafia, una buona notizia perché si cerca di colpire la mafia e la corruzione, lo stalking, il terrorismo anche sul patrimonio, ci sono delle criticità. Vedremo, perché tutte le aziende, per esempio, sequestrate in attesa di confisca, il 90% falliscono. Bisogna trovare un modo che si sequestra alla mafia ma non si fanno fallire ma le non aziende. Si sequestra al paese. Al paese, bravo. Allora, chi titoli. Altro? Titoli, cominciamo con i titoli, ma dobbiamo già dare la linea al traffico. E allora dopo diamo così una spolverata. Titoli di traffico. Allora, il Corriere parte così: unità nazionale contro gli scafisti e terroristi. Questo è il ministro Minniti intervistato dal Corriere. Però invece Repubblica è proprio Di Maio, il diktat sui sindacati. Bravo. Si riformino o lo faremo noi. Tutti hanno questo anche titolo. Repubblica. No, il Fatto non ce l'ha, in realtà. Il Fatto non parla della questione di Di Maio. Però ce l'ha il Corriere. Di Maio attacca il sindacato Cambi o ci pensiamo noi. Poi c'è tanta Spagna. Molta Spagna. Anche esatto. Se i giornali sono naturalmente un po' superati dalla cronaca, che insomma i seggi dovrebbero aprire proprio in questi minuti. Catalogna al voto in Spagna, un test per la nuova Europa, scrive la Stampa. Madrid sequestra i seggi, sfida finale in Catalogna, dice Repubblica. E tra poco vedremo anche se c'è qualche aggiornamento in tempo reale. Traffico, torniamo tra pochissimo. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presento. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, giusto così per dare subito un assaggio, perché questa non è una rassegna stampa normale, vera e propria, noi cerchiamo anche sui giornali, partiamo da qua, buone notizie. In Italia, l'EMA, scatto di Milano, l'agenzia per il farmaco, questo titolo un po' ottimistico del Corriere. Al momento c'è solo una lista di partenza e la Commissione Europea ha stabilito i criteri e Milano rientra, siamo ancora in questa lista di partenza, dove se non sbaglio all'inizio erano tanti nomi di 20 città, si è un po' sfoltita in realtà. Siamo ancora per i criteri, in gara, ovviamente. Ancora in gara. E esatto. Poi adesso magari leggeremo tra poco. Infatti, è una rassegna stampa dove noi cerchiamo le buone notizie, però siamo inondati da notizie assolutamente non buone, e con quelle ci facciamo giustamente la rassegna stampa. Bravo. Che è le notizie, sono le notizie della prima parte. Allora, sulla Spagna c'è anche il super titolo. Allora, il super titolo è manifesto, è che si posiziona sempre sul Real Madrid. Non è male sul Real Madrid. Propongo un pari merito, in realtà, visto che il manifesto, praticamente la rubrica super titolo è la rubrica come titolo al manifesto molto spesso, perché sono i più bravi. Però anche il secolo XIX titola Divorzio alla catalana, che ci è piaciuto molto. Tipo polpo alla catalana, gamberi alla catalana, divorzio all'italiana, ma in questo caso divorzio alla catalana. Esatto, è il misto tra le chiusi due cose. E polizia. Ecco, diciamo che al contrario del manifesto, che invece se la sente di andare dritto con il proprio titolo dirompente, il secolo XIX è divorzio alla catalana, due punti, seggi chiusi e polizia. Quindi poi in realtà la specifica rimane un po' più seria. Oh, ecco chi è il mandante dell'agguato a Berlusconi, è il titolo principale del giornale. Trame a 5 stelle, vertici segreti tra Grillo e Davigo dietro la legge per fare fuori il cavaliere dalla vita pubblica. Ne abbiamo parlato ieri, la legge è un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle al Rosatellum, alla legge elettorale, che prevede che il capo politico di una forza politica che si candida non possa essere incandidabile. È un po' confusa, ma è così. In pratica Berlusconi, che attende ancora la sentenza europea sulla sua incandidabilità, che a tutt'oggi è ancora attiva, non potrebbe fare nemmeno il capo politico di una forza che si candida all'elezione. Allora, secondo il giornale, dietro a questa notizia ci sono vertici segreti, che almeno tre, che ci sono stati nei giorni scorsi tra Beppe Grillo e il magistrato Pier Camillo Davigo. Questo sul giornale. Poi ancora, che altro? Ti leggo una notizia che non si sa se è buona o cattiva, ed è su Il Fatto Quotidiano. Anna Mazza Mauro, che ricordiamo tutti per il film di Fantozzi, che dice: molti mi dicono in strada mi dia della merdaccia. Mi ha fatto ridere perché mi sono chiesto: ma sarà una buona notizia, oppure forse è lo specchio del paese, il fatto che tutti vogliamo farci dare della merdaccia? Allora, invece, sulla prima pagina del Messaggero, oltre al titolo su Roma, caso salute Roma peggiora, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, quella di Roma sarebbe l'unica capitale europea in cui gli indicatori della salute sono in discesa, ma il primario Cognetti replica: non esistono dati certi. Ma non era questa la notizia che volevo darti, Carlo, e anche agli ascoltatori, è questa. Giocatori d'azzardo, sappiate, l'aliquota passa da oggi al 12%, raddoppia per Gratta e Vinci e che cos'altro ancora? Aspetta che vado a guardare. Ma l'aliquota, quindi quello che si lascia allo Stato? Si incassa di meno, per le vincite di meno. Superiore ai 5, un motivo in meno, in più per non giocare o in meno per giocare, perché si incassa di meno. Scatta oggi il raddoppio, scrive il Messaggero, della cosiddetta tassa sulla fortuna previsto dalla manovra bis varata a giugno di quest'anno, un balzello che passerà dal 6% al 12% da applicare alla parte di vincita eccedente i 500 euro. Vale per Gratta e Vinci, Superenalotto, Win for Life, ma anche per Video Lottery Slot di nuova generazione. Sembra un bruscolini, ma in realtà vuol dire che quando vinci 50 milioni di euro, in realtà paghi il 12 invece del 6. Quando stiamo parlando di cifre vere. O anche quando vinci 500 euro. Sì. Ma siamo al solito, insomma, la mano sinistra dello Stato che fa leggi, come abbiamo appena salutato qualche settimana fa, per limitare il gioco e per cercare di frenare le patologie, perché c'è gente che si rovina e si ammala seriamente, con l'altra manina naturalmente aumenta il prelievo fiscale su questo. E questa è una notizia. Poi qualche altro titolo, ce l'abbiamo qualche altro titolo diverso? O sono tutti i giornali sulle stesse cose? No, il Corriere della Sera in realtà dice: unità nazionale contro gli scafisti e i terroristi. Il ministro Minniti: ora l'Europa aiuti la Libia. Prego, allora voglio leggervelo, perché lui dice, Minniti, che è l'uomo dell'estate. Sicuramente Giulia Crivelli nella sua rassegna stampa vi avrà già letto questa intervista. Insomma, dice: sono profondamente di sinistra, intanto, perché mi sono iscritto al Partito Comunista Italiano quando ero bambino, però vengo da una famiglia di militari. Mio padre ebbe 8 fratelli, tutti e 9 fecero i militari. Quindi c'è questo Minniti che è sempre in bilico, no? Fra destra e sinistra. Infatti poi sulla questione dei migranti, sulla questione insomma dei trafficanti di uomini, dice: ci vuole, su questi grandi temi di fondo, un grande paese non si divide. La mia scelta di metterci la faccia senza entrare nel campo aperto delle contrapposizioni politiche ha questo significato. Solo così si affronta il tema cruciale nelle società moderne. Sembra quasi un inizio di grosse coalizioni. Io la butto lì così, va bene. Poi c'è anche un'altra intervista di un altro ministro, Alfano, che dà una mezza, neanche buona notizia, ma insomma su Regeni, sul caso Regeni, perché Alfano dice Londra ci sostiene, Londra anzi ci sosterrà, dice in questa intervista Alfano. Speriamo che ci sosterrà, perché per il momento il rientro dell'ambasciatore italiano in Egitto ha creato delusione da parte di chi voleva un'Italia più ferma per chiedere giustizia per Giulio Regeni. Infatti Alfano si giustifica dicendo: l'invio dell'ambasciatore italiano Cattini in Egitto è stato deciso per porre una cooperazione giudiziaria al centro del dialogo con gli egiziani. E dice anche Alfano che l'ambasciatore di Kim sarà espulso dall'Italia. Invece parliamo di Corea, giusto? Sempre in quell'intervista che stavi citando. Però siccome siamo Si può fare e siamo alla domenica, noi vi facciamo sentire quali sono le 5 migliori notizie della settimana. Si può 5. Allora, quinto posto, Bari, dal comune parrucchiere ed estetisti per le clochard. Si chiama Bellissima il progetto del comune, finanziato tra l'altro non so perché da Ferrovie dello Stato, in questo caso forse perché siamo area 51 dove avverrà tutto questo, deve essere nei pressi della stazione ferroviaria di Bari, questo non lo so perché non sono di quelle zone lì, ma l'iniziativa è questa: nel centro diurno area 51 verrà effettuata tintura, taglio, messa in piega dei capelli a seconda delle esigenze delle clochard, ma anche dei clochard che devono fare uno scatto anche nel recupero della loro immagine, dignità, della loro immagine. È importante anche questo. Sembrano cose superflue, ma non sono cose superflue. Al quarto posto abbiamo un numero: 800558822, ovvero ciò che da domani sarà il numero legato, scusate, il numero nazionale per le problematiche legate al gioco d'azzardo. Quello che dicevamo prima, l'azzardo. Esatto. Parte da domani, è un numero che sarà in via sperimentale fino al 31 marzo 2018. Se possiamo già dire, è una buona notizia. Al momento il numero durerà dalle 10, cioè da lunedì al venerdì, e dalle 10 alle 16. Proponiamo subito di allungarne l'orario, perché uno magari ha delle problematiche legate al gioco d'azzardo anche più a tarda notte, piuttosto che dalle 10 del mattino alle 4 del pomeriggio. Anche solo alle 8 di sera, per esempio. Esatto. Terzo posto, siamo quindi sul podio, una notizia che farà felici le donne, non so proprio se tutte, perché qua stiamo parlando della prima volta che una donna diventa ufficiale nei Marines, lo storico corpo dei Marines che siamo abituati a vedere in 100.000 film, sono tutti maschi piuttosto alfa agguerriti eccetera. È stata nominata la prima donna che ha superato il corso per ufficiali e tutti sono molto orgogliosi di lei. Sai che pizze se ti dà, se sgarri questa qua, cioè, mamma mia, fa paura. Dici, preoccupiamoci dei figli delle mamme Marines. Comunque sono ignorante perché pensavo che i Marines le avessero già accettate le donne, invece sono contento che mi dai ufficiale. Al secondo posto torniamo in Italia, dopo tre legislature il cui provvedimento era arrivato sempre a un passo dall'approvazione, infatti noi ne abbiamo sono anni che ne parliamo senza riuscire mai a toccare il traguardo. Il Parlamento approva il disegno di legge che sostiene e valorizza i piccoli comuni italiani, ne siamo molto contenti. Il cosiddetto provvedimento salva borghi e prevede per l'anno 2017 lo stanziamento di 10 milioni, anche perché ci vive metà della popolazione italiana e spesso invece ci sono grosse difficoltà per i mezzi di trasporto, per esempio, o anche semplicemente per le scuole e altro. Benissimo, primo posto, questa è una notizia che diamo anche sulla fiducia, per qualcuno sarà troppo poco, ma è già un inizio. Parliamo dei ricollocamenti dei migranti in Europa, quelli che arrivano in Italia, i profughi, e che da mesi si discute se c'è una solidarietà europea, devono essere accolti anche negli altri paesi. Ebbene, l'anno scorso furono 2.655, quest'anno sono stati 9.085, cioè è quasi quadruplicato il numero di migranti che sono stati accolti dagli altri paesi, cioè è quadruplicata la solidarietà, anche se è ancora un inizio, quindi si può fare meglio in questo caso. Certo, e beh, però un ottimo primo posto. All right, give me five. All right. Ciao Alessio, ciao Carlo, sono davvero felice oggi perché vi chiamo da una zona remota del tempo, dal 2040. Non sono mai arrivato così lontano. Spero che mi sentiate forte e chiaro. Sono certo però che non sentirete forte e chiaro il rumore dei motori a benzina, i motori a combustione interna, quelli nati all'inizio del Novecento. Qua nel 2040 sono banditi. Oggi è stata rottamata l'ultima auto di quel tipo e nelle città come Londra, Parigi, Londra in particolare dove mi trovo, girano solo macchine elettriche e quelle poche macchine che girano sono condivise. Quindi qua, ascoltate, si sente il rumore della natura in pieno centro a Londra. È incredibile, davvero. Qua le carreggiate per le auto sono state divise e sono state adibite alla coltivazione diretta del cibo che si mangia nelle città. Qua in particolare a Londra viene prodotto il miglior miele del mondo e io lo sto per prendere per portarlo indietro nel tempo e darlo alla mia bambina che nel 2017 ha solo 5 anni. Spero di riuscire a tornare con questo cimelio e con altre buone notizie dal futuro. Ci vediamo presto, ci sentiamo presto, ciao! Hai capito Massimo Temporelli? Io pensavo che questi annunci che vengono fatti, per esempio la Gran Bretagna ha detto poco tempo fa che entro il 2040 non ci saranno più auto diesel e nemmeno benzina. E benzina. E io pensavo che fossero annunci, sai, lasciano il tempo che no, evidentemente invece sentito, no. Dal 2040 Temporelli ha detto che è così. Anche perché la Gran Bretagna segue la Francia, quindi in realtà si stanno veramente muovendo tutti. Tra e evidentemente funzionerà, perché Temporelli ci parla dal futuro. Certo, tra l'altro ti posso dire che dalla manifestazione organizzata dalla Coldiretti al Castello Sforzesco di Milano che si conclude oggi, il ministro per le politiche agricole Martina ha dato una notizia che va un po' in questo senso. Nella legge di bilancio i fondi ai distretti del cibo, valorizziamo le filiere, ci sono 60 distretti con tutti i nostri particolarissimi cibi locali che il governo, insomma il Parlamento ancora continuano a sostenere, sono cresciute, dice la Coldiretti, le imprese under 35, imprese agricole, nuove imprese agricole, più 7% da un anno all'altro. Quindi questo è un settore, lo sappiamo, lo diciamo spesso, che va, che tira, che funziona. Siamo felicissimi perché per il resto è un mezzo disastro. Invece ho trovato una buona notizia sul Corriere, che in realtà è un'inchiesta sulle imam delle carceri. È un progetto sperimentale anti-radicalizzazione su un migliaio di reclusi di 8 penitenziari italiani. Fra queste guide spirituali anche 4 donne che dicono: spieghiamo il Corano spesso ad analfabeti. La prima volta al carcere di Bollate non tutti le hanno preso sul serio, alcuni sono rimasti nelle celle diffidenti o forse oltraggiati da quella presenza femminile, ma lei e la sua collega Soraya non si sono perse d'animo. È molto bella questa inchiesta ed è bello anche l'analisi che ne fanno, dicendo molte di queste persone che sono in carcere sono analfabeti e non hanno nemmeno fatto le scuole e spesso è per questo che sono così rigidi e così chiusi. E io voglio mettere anche tra le buone notizie, anche qui un po' sulla fiducia, questa notizia qua che da Repubblica, rivoluzione in TV, film italiani d'obbligo in prima serata. Il tentativo è quello di mettere almeno un film italiano in prima serata sulla Rai, un bel film italiano. No, per, è uno a settimana per tutti i canali e due per i canali Rai invece. Esatto, giusto, hai detto bene. Se sembra una buona notizia, diciamo, sarebbe una notizia migliore se ci fosse dell'ottimo cinema, perché spesso uno scegliere. Dice sì, una volta alla settimana va bene, ma una volta che ho fatto Sorrentino, Garrone e quelli bravi, e poi che cosa ci metto? È vero, però visto che siamo invasi comunque da cinematografia soprattutto americana, il tentativo in qualche modo di reagire e di imporre un po' anche il nostro come fanno i francesi, di vista, per fanno per francesi, dire, insomma, i francesi nel loro paese fanno così e infatti poi, perché si può andare o da una parte o dall'altra, può anche essere che tu inizi così, che quindi poi ci saranno più soldi e più fondi per fare il cinema e quindi anche il cinema migliorerà. 800 24 00 24, vi aspettiamo tra poco, cerchiamo un personaggio della settimana che ha carattere. A tra poco parliamo dell'approvazione del codice antimafia e ci chiediamo se è una buona notizia, se è un si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side. Ecco, partiamo così, belli spinti dal punto di vista musicale, perché anche la notizia è di quelle toste che fanno discutere. Importante l'approvazione e l'aggiornamento del codice antimafia. Con noi ne parliamo con Antonio Calabro, vicepresidente di Assolombarda di Confindustria. Buongiorno. Buongiorno e buon mattino a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Buongiorno. Con delega appunto alla legalità, Calabro, dentro Assolombarda. E la notizia è questa. Io allora faccio un piccolissimo preambolo. Noi abbiamo seguito un po' l'iter di questa codice antimafia. Sicuramente la criminalità si combatte anche con leggi giuste, con leggi ben fatte. In questo caso il codice antimafia del 2011 è stato aggiornato e è stato inserito all'interno anche reati come il terrorismo, lo stalking, l'associazione a delinquere per reati contro la pubblica amministrazione, leggi, la corruzione, che essendo inseriti come reati di grave pericolosità sociale, da questo momento in avanti rientrano in quei reati per cui sono previste misure di prevenzione importanti sulla persona, pensiamo allo stalking per esempio, ma anche sul patrimonio di queste persone indiziate di questi reati. Si rafforza anche l'agenzia per i beni confiscati, sequestrati e confiscati alla mafia. Polemiche però ci sono state e ci sono tuttora per l'uso eccessivo di queste misure di prevenzione, che fanno storcere il naso a molti, preoccupano, e anche, ha detto per esempio il presidente di Confindustria Boccia, l'equiparazione tra la corruzione e la mafia viene considerata addirittura un errore. Calabro, prima di tutto le chiedo un giudizio generale su l'arrivo di questo codice antimafia, che è stato appunto un percorso lungo, è partito in un modo, poi è cambiato, ma insomma adesso possiamo commentare. Questo abbiamo. Io potrei dire innanzitutto che l'approvazione del nuovo codice antimafia è importante, dona alla magistratura gli strumenti per poter intervenire meglio contro le cose criminali in un momento in cui l'ombra della mafia si intravede con grande pesantezza. Ha suscitato allarme il sapere che sulla fiera di Milano, sugli appalti di una società collegata alla fiera di Milano, si sentivano le mani di Matteo Messina Denaro. Matteo Messina Denaro è uno dei peggiori e più pericolosi mafiosi che ci siano purtroppo ancora in circolazione. Ecco, fa affari con Milano, è in una società simbolo di Milano, la mafia. Ma poi ci sono tutte le presenze che vanno emergendo con sempre più forza dell''Ndrangheta, un altro cancro con rischi a Milano. Insomma, siamo di fronte non alla mafia in remissione, ma alla mafia, cosa nostra, che morre anche in espansione. Avere uno strumento di intervento è una buona notizia, ma se volete parliamo dei ma. Ecco, cominciamo, certo, con i ma che ci sono. Per esempio, faccio io qualche domanda. La questione delle misure preventive, anche Valerio Nida, costituzionalista, non certo come dire tacciabile di simpatie nei confronti dei corrotti o dei mafiosi, dice che questo uso eccessivo delle misure di prevenzione rischia di essere, come dire, una pena anticipata prima delle sentenze, e che invece la mafia si combatte con sentenze e condanne. Leggo tre giudizi sui giornali di questi giorni: uno è di Valerio Nida, l'altro è di Marcello Claric e il terzo è di Flick. Tre persone di orientamento culturale diverso rispetto alla giurisdizione che dicono due cose. Primo, non allarghiamo troppo le maglie delle misure di prevenzione perché andiamo a sbattere contro l'incostituzionalità. La misura di prevenzione, secondo il codice, si applica a persone solo indiziate e non condannate. La seconda cosa che dicono, e che è importante, è che corruzione e mafia sono fenomeni diversi. Lo dico meglio: attraverso la corruzione la mafia si insinua dentro la pubblica amministrazione e stravolge il mercato, stravolge gli appalti, stravolge le imprese sane. Ma tutto ciò che è corrotto non è necessariamente mafioso. Ora, se tu allarghi i confini dei provvedimenti che riguardano la mafia, secondo me rendi meno semplice capire esattamente che cos'è la mafia. Non dico poi della mancanza di senso di trovare il provvedimento sullo stalking. Qui lo stalking va molto duramente e severamente perseguito, ma che c'entra in una normativa antimafia? Allora, dobbiamo anche dire, a onor del vero, che c'è un ordine del giorno che impegna il governo a modificare alcune parti di questa norma, quelle di cui stiamo parlando adesso, quelle su cui c'è stata criticità, mancato un voto unanime, è stata approvata da una parte del Parlamento, contrari Movimento 5 Stelle e Forza Italia, astenuta però la Lega, quindi c'è questa piccola sfumatura. Però al momento queste sono le norme. La questione che sta a cuore, per esempio, molto a Confindustria è quella delle aziende, perché bisogna sapere, e noi ne parliamo spessissimo, salutiamo ogni volta con grandi festeggiamenti, ogni volta che un bene confiscato alla mafia diventa qualcos'altro, una scuola, un doposcuola per bambini, un centro culturale, un posto per ospitare chi ha bisogno, o una stazione dei carabinieri, ma anche una pizzeria, cosa che però diciamo non so se è possibile che accada, attività commerciale di questo una genere. Una pizzeria per bene, sì. Una pizzeria per bene, sì. Certo. Esatto, sì, perché poi ci sono anche tutte le attività commerciali legate... Nella zona di Varese, sì, una pizzeria che era luogo di concentrazione di interessi mafiosi, che è stata sequestrata, confiscata, affidata ai creditori per bene, e adesso funziona benissimo. Ecco, la pizza della legalità ha un sapore migliore. Speriamo che siano napoletani i pizzaioli, o sono di Varese. Sono bravi. L'importante giusto, è quello. Giusto. Il problema però è un altro, è che il 90% di queste aziende, prima di arrivare a sentenza definitiva e a confisca definitiva, nel frattempo affidate a commercialisti scelti dall'albo dal prefetto, falliscono. E questo è un problema non da poco, che in questa riforma del codice antimafia forse non si è affrontato come si poteva, Calabro, è così? No, purtroppo no. Ci sono delle misure che migliorano l'andamento dell'attività di amministrazione, si potenzia l'Agenzia Nazionale Antimafia, per esempio non si ha chiara tutta la portata dei beni che sono sotto sequestro, sotto confisca, ma non si affronta il tema cardine. Parlo non dei beni, è più facile, ma delle imprese. Tu sequestri un'impresa commerciale, un'impresa che lavora nel mondo dell'edilizia, e nel momento in cui la sequestri e la metti nelle mani di un amministratore giudiziario, per benissimo, per carità, succedono alcune cose. Si bloccano i crediti in banca, i creditori di beni e di servizi si presentano alla porta per essere pagati, le forniture non vengono onorate, si pone un problema del lavoro. Sono anni che, come a Solombardo, andiamo dicendo, queste imprese, le imprese, vanno messe nelle mani di manager, affiancate agli amministratori giudiziari, sotto il controllo del giudice, ma di manager che guardano l'azienda e dicono: per andare avanti bisogna fare 1, 2, 3 cose subito, la gestiscono. Di qualcuno che sia in grado di gestirle, non di esatto, qualcuno che semplicemente... Un commercialista, certo, un amministratore giudiziario non hanno la testa per fare questo, non hanno la formazione. L'affiancamento sarebbe indispensabile. Abbiamo anche anni fa formato 60 manager nella gestione di imprese mafiose, perché un'impresa mafiosa non è un'impresa normale. Devi per esempio accertare se ha funzionato perché non pagava le tasse, non lavava i contratti, si imponeva sui concorrenti a violenza e riciclava denaro sporco. Senza queste quattro condizioni l'impresa non sarebbe diffusa, quella va chiusa e vanno risparmiate risorse per altro e per rilanciare l'attività di quella impresa in modo legale. E insomma, la gestione dell'economia non è soltanto l'applicazione del codice e delle regole indispensabili di correttezza, e governo dei processi economici. Su questo purtroppo il nuovo codice non fa passi avanti. Ecco, noi speriamo che questo 90% di imprese che chiudono, che falliscono praticamente nel percorso che le porta dalla sequestra dal sequestro alla confisca definitiva e quindi a nuove assegnazioni, scenda, che si migliori. Speriamo che l'Agenzia per i beni confiscati, che magari ci sta ascoltando, senta questo appello e insomma, in corso d'opera si trovino i modi. Aggiungo una per cosa farlo. Velocissima. Sì? Prego. Si può fare questo affiancamento alle manager, perché sta nella potestà dei magistrati che intervengono sulle misure di prevenzione. E allora facciamo. Sarebbe utile, ma sarebbe ancora più utile che si tenesse conto nella gestione del processo. Ci ha detto splendidamente si può fare, quindi credo che essendo noi si può fare, useremo la sua voce per metterlo nella sigla. Esatto. Speriamo che si faccia. Grazie Calabro, buona giornata. Grazie. Grazie a voi e buona giornata. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, questo è già un argomento di discussione, però tra poco parliamo di barriere architettoniche, perché oggi è la giornata per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Quindi contro, è la giornata contro le barriere architettoniche. Quindi vi chiediamo, nei vostri comuni, nelle vostre zone, dove ci sono delle barriere architettoniche insuperabili, insormontabili, dove voi o i vostri amici disabili si sono imbattuti in queste barriere, oppure anche semplicemente in positivo, dove è stato fatto qualcosa, sono stati fatti dei miglioramenti visibili, delle discesine. Chiamateci oggi, ascoltatori, controllori dei fatti, sul tema delle barriere architettoniche. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Con noi diamo la buona domenica a Giuseppe Trieste, presidente di Fiaba Onlus. Parliamo della giornata per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno. Allora, abbiamo una serie di eventi, tra l'altro, un po' in giro a Roma in particolare, Palazzo Chigi aperto a chi ha disabilità, non solo, e poi, insomma, Trieste, facciamo un bilancio anche su questo anno che voi annunciate, un anno di collaborazioni anche positivo in qualche modo con le amministrazioni, con le pubbliche amministrazioni, è vero? Indubbiamente sì, per noi che da 15 anni facciamo questa iniziativa è stata sempre positiva la collaborazione con le pubbliche amministrazioni, anche per quanto riguarda un interesse della popolazione intera, tutti i cittadini, tutte le persone hanno necessità di avere accessibilità quotidiana a tutto quei servizi, al lavoro, alla vita comune. Di conseguenza è un qualcosa che riguarda tutti trasversalmente per la qualità della vita della famiglia. Certo, insomma ci si sta lavorando perché sempre di più entra nella testa e forse anche nel cuore di ognuno di noi questa necessità di cui parlava lei. Certo però che ci sono stati dei casi quest'estate che hanno fatto discutere, no? Molto, perché si sono visti anche degli accanimenti da parte di adesso non voglio citare l'auto parcheggiata nel posto disabili in via Monte Napoleone, esatto, a Milano. Proprio citando, perché parlavi di mare, ho detto allora sarà dopo. Insomma, voglio dire, come mai ci sono questo tipo di retaggi, come la vogliamo chiamare, sottovalutazione culturale, oppure a volte siamo talmente abituati in Italia a chi imbroglia, no? A chi prende la scorciatoia, che diciamo ne approfitto anch'io, la parcheggio anch'io sul posto dei disabili, cosa che non si dovrebbe mai fare. Come mai, secondo lei? Ma indubbiamente noi sappiamo che i casi negativi sono sempre esistiti e esisteranno sempre, e che noi dobbiamo fare un giusto bilancio, dobbiamo anche dare molto risalto alle cose positive che i cittadini italiani quotidianamente fanno. La maleducazione, la mancanza di educazione civica è un qualcosa che è sempre esistito e esisterà sempre, ma è il buon comportamento della maggioranza dei cittadini che fanno sì che queste vengano isolate, non vengono prese, non devono essere emulate, insomma. Ecco, certo. Quello che ha fatto questa azione, le persone che fanno questa azione negative non devono essere orgogliose, tantomeno gli altri devono imitarli. No, io credo che quasi tutti, in realtà, tutti stigmatizzano, criticano, attaccano questi comportamenti. Fa rabbia però che poi ci sia una sorta, come dire, di impunità, no? Di questo tipo di comportamenti. Sì, comunque, soprattutto, soprattutto, se posso dire una cosa, lei giustamente dice è sempre esistito anche la maleducazione, però ultimamente si ha come la sensazione... Che stia, non dico aumentando, ma che sia proprio che sia spavalda, ecco, è questo che trovo invece nuovo. E la cosa che trovo molto buona è che Fiaba, infatti, dice che si occupa di abbattere le barriere, non solo quelle fisiche, ma anche quelle culturali, quelle psicologiche, mentali, quelle sensoriali. Certo. E quindi mi chiedo come si sta lavorando da quel punto di vista, perché queste appunto sono molto più barriere psicologiche, perché sennò non si capisce com'è che uno possa parcheggiare sul posto dei disabili e dopo dire tu rimarrai disabile tutta la vita, cioè è una cosa che non si capisce. Lasciatemi raccontare qualcosa, perché sennò noi ci focalizziamo sul cretino che ha parcheggiato sul posto disabile e non vediamo tutte le buone cose che nel nostro paese. Oggi è la 15ª edizione della giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche Fiaba Day. Ogni anno si fa a Roma, Piazza Colonna, davanti al Palazzo del Governo che si apre, e vengono dibattute tutta una serie di grandi temi. Si chiude un anno di lavoro e si apre l'anno successivo. Ho l'importanza della formazione per educare all'accessibilità, ma l'accessibilità non in funzione della barriera fisica, ma in funzione dell'accessibilità di qualunque cosa l'essere umano fa quotidianamente. E il dialogo che c'è con tutte le pubbliche amministrazioni, dal Presidente della Repubblica, che proprio in questi giorni dobbiamo però chiudere, Trieste, abbiamo davvero pochi secondi. Abbiamo una barriera temporale. Allora, volevo ricordare il progetto Futuri Geometri, questo è importante, nelle scuole. A venire al Fiaba Day a Piazza Colonna oggi dalle 10 alle 19. Va bene. Questo potevamo dire, purtroppo non abbiamo più molto tempo. Il progetto molto importante è Futuri Geometri, perché i ragazzi delle scuole stanno lavorando e danno soluzioni ai comuni. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 9 e 10 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno, buona domenica da Carlo Gabardini. Aspettiamo all'800 24 00 24 per un personaggio della settimana che ha carattere, anche per farci da controllore dei fatti per la questione delle barriere architettoniche. Il fatto è, le barriere architettoniche nelle vostre città, dove ci sono, dove sono insuperabili, dove invece volete invece segnalarci che ci sono delle buone pratiche. Per esempio, non abbiamo fatto a tempo con il presidente di Fiaba Onlus a citare le città, però il progetto Futuri Geometri nelle scuole, dove i ragazzi donano ai comuni progetti per eliminare le barriere architettoniche e i comuni le adottano, è accaduto a Grosseto, ad Asti, ad Alessandria e a Rovereto, e ringraziamo questi comuni naturalmente. Ma se avete altre notizie, vi aspettiamo qui come controllori delle notizie in giro per l'Italia. Benissimo, andiamo con Stefano, che ci chiama dalla provincia di Monza e Brianza. Benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. E per la precisione da Arcore, volevo segnalare una situazione, a mio modesto parere, paradossale. La stazione ferroviaria di Arcore aveva all'interno della biglietteria della sala d'attesa a livello col pavimento stradale e col marciapiede primo binario, quindi accessibile, quindi perfettamente accessibile, è stato rialzato di ben due scalini, creando una barriera dove non c'era. Cioè è stato peggiorato. Ma come mai? Ma si sa, c'è una motivazione? Ma lavori di riqualificazione, abbellimento, adesso c'erano anche delle manutenzioni da fare, d'accordo, se crolla il tetto si sistema, ma certo, creare due scalini, ci sono le rampe, d'accordo, li hanno raccordati, ma era perfettamente a livello. Francamente sono fisioterapista, esperto di barriere di disabili. Va di bene carrozzia. Stefano, hai fatto bene a segnalarci questa cosa. Comune di Arcore, svegliati e dacci una risposta almeno su questo, cioè, perché insomma motivazione valida del perché è stata creata una barriera dove non c'era. Esatto, e beh, cioè, avete un cittadino molto famoso, ci occuperemo di far arrivare questa informazione a lui, direi. Perché sì, perché oggi, tra l'altro, ricordiamo, è la giornata per l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi quanto mai cade a puntino, cioè abbattiamola questa. Ma poi conviene a tutti abbattere, anche perché non sai mai, magari poi un giorno sarà in carrozzella. Renzo da Imperia, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Dunque, io voglio parlare delle difficoltà architettoniche che ci sono a Imperia, perché penso che sia la città che ne ha di più. Ah. È una cosa spaventosa. Dunque, tanto per farle un esempio, c'è un marciapiede, all'inizio c'è un bellissimo scivolo, alla fine del marciapiede c'è uno scalino alto 2 metri, per modo di dire. Quindi è per tenere tutti su quel marciapiede, si sale molto facilmente ma è impossibile scenderne. Esatto. Renzo, ma una cosa, ma sì. E poi buche, strade mal tenute. Vabbè, questo diciamo che lo possiamo, diciamo, no, ad onorem dare, esatto, a tre quarti delle città italiane. Però in particolare Renzo ci segnala Imperia. Poi ci sono anche città che hanno delle conformazioni territoriali particolarmente poco ospitali per chi è in carrozzina. Però stamattina vi chiediamo di segnalarci tutto quello che di buono è stato fatto nei vostri comuni, ma anche che non è stato fatto, quello che bisognerebbe fare per abbattere le barriere architettoniche. Ascoltatori nominati, controllori dei fatti, come Renzo e come l'ascoltatore di prima poco fa, l'800 24 00 24. E abbiamo però anche un personaggio della settimana da indovinare. È un personaggio che ha carattere. Giuseppe da Milano, vai. Sì, pronto. Pronto. Io pensavo a Twitter, che ha aumentato i caratteri da 140 a 280, quindi si parlava di caratteri, di carattere, ma pensavo che la risposta potesse essere questa. T'abbiamo lasciato un po' sulle spine, perché volevamo che ti incartassi in qualche modo nella spiegazione, invece no, è perfetta, invece no. È perfetta, sì, ed è anche il primo che chiama, visto che di solito ci dicono sempre ah, ma come mai, sempre invece il primo che chiama è anche il primo che indovina. Assolutamente. Hai beccato anche l'ironia del nostro indizio, perché potevamo dire ha molti caratteri, invece ha carattere. Ne approfittiamo. Ti porti a casa ovviamente 2 biglietti per la mostra di Klimt al MUDEC di Milano. Ne approfittiamo, visto che ci teniamo sempre a un personaggio che sia legato alla notizia della settimana, anche per parlare della notizia. In realtà non sappiamo se sia una buona notizia. Onestamente, Twitter, forse ciò che rendeva di un social Twitter era proprio il fatto di avere 140 caratteri. Nel momento che li raddoppi e arrivi a 280, forse stai un po' grattando il fondo del barile. Io forse avrei quasi preferito che li portassero a 70, perché quello è la difficoltà, o a 7. Allora, benissimo, a questo punto mettiamo in pista un altro personaggio della settimana, perché siamo generosi, sono ancora 45 minuti da stare insieme, e vi do subito così, tac, l'indizio è questo: il personaggio è inossidabile, quindi pensate, ultimi 7 giorni, una notizia, un personaggio inossidabile, e chiamate, perché vi portate a casa, se indovinate, anche qua i biglietti di Klimt per il MUDEC. Tra poco torna con noi Rossano Ercolini. Allora io lo voglio introdurre con una notizia di questa settimana, non è una notizia che approfondiremo ma è un'altra, non importa. L'industria eolica europea entro il 2030 potrebbe raddoppiare la potenza, i gigawatt a disposizione, fino ad arrivare al 30% della domanda di energia. Il 30% di eolico in Europa entro il 2030 sarebbe un risultato straordinario per affrancarci, si dice così, dal fabbisogno di petrolio, eccetera, eccetera. Certo. Questo lo dicono le aziende produttrici Wind Europe, l'associazione che raduna le aziende produttrici che lavorano nell'eolico. Però insomma è una prospettiva da cogliere. Non perdiamo questa prospettiva sull'eolico. Ma con Ercolini tra poco parliamo di vuoto a rendere. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. in attuazione del collegato ambientale, che è la legge di stabilità del 2014, finalizzata, leggo, alla prevenzione dei rifiuti da imballaggio monouso attraverso l'introduzione su base volontaria di un sistema incentivato di restituzione delle bottiglie riutilizzabili. Cioè, torna il vuoto a rendere. E torna anche Rossana Ercolini. Buongiorno, benvenuto. Come state? Bene. Come hai trascorso questi mesi estivi, sempre in giro a portare il verbo di zero rifiuti? No, un po' staccato, ma diciamo ho ricaricato le batterie. Bravo. Spero di essere in piena efficienza. Con l'energia pulita, speriamo. Come le hai ricaricate le batterie? Mamma mia. Col petrolio? Energia pulitissima. Senti, Ercolini si ricarica con l'eolico, volevo dirlo a tutti comunque. Noi siamo felici di questa cosa qua del vuoto a rendere, però vogliamo capire un po' con te come potrebbe funzionare, perché il vuoto a rendere, io mi ricordo quando ero bambino, andavamo con mio padre con queste cassette di bottiglie e poi riprendevamo l'acqua, certo, eccetera. Allora non c'era forse molta alternativa, c'era meno plastica, si faceva così, però è un po' faticoso, è un po' impegnativo. Riusciremo a tornare a questo? Qual è l'incentivo? Come funziona? Che ne pensi di questa cosa, Rossano? Beh, insomma, bisogna sempre essere positivi, però devo dire che ci vuole molta fatica, perché quello che descrivevate voi, il vuoto a rendere, la bottiglia oppure la cassetta con le bottiglie, non è previsto all'interno di questo progetto di sperimentazione, come se dovessimo sperimentare cose che 20 anni fa erano ancora operative. E già sperimentate. Appunto, riguarda solo purtroppo i ristoranti e i bar. Quindi l'utente finale, il cittadino comune che siamo noi, non ha la possibilità di riportare indietro la bottiglia, magari di ricevere quei 10 centesimi come avviene in molti paesi europei. Per cui prendiamo quello che si può fare. Purtroppo di nuovo tutto è volontario, di nuovo il grande cuore, incentivi economici non ce ne sono, nemmeno in quel caso in cui dicevamo prima, che forse sarebbe il più importante, mettere nei supermercati a raggiungere degli accordi, non solo che obblighino, ma magari anche compensino i supermercati che lo fanno, dove il cittadino va e riscuote dei buoni, se non proprio moneta corrente. Perché noi vogliamo che il comportamento virtuoso, se è un po' impegnativo, se è un po' faticoso, è il concetto della tariffa puntuale sui rifiuti, per esempio, sia in qualche modo premiato, perché altrimenti tra uno che fa lo sforzo e uno che non fa lo sforzo, se non c'è guadagno da parte di chi si impegna, non ha senso, no? È questo il concetto. E anche se non c'è punizione, nel senso che se comunque è volontario, tu lo puoi fare o lo puoi non fare, è una roba che si poteva già fare anche prima di questa legge. Sì. Chiaramente, voglio dire, ridurre al minimo la punibilità e aumentare l'appetibilità, l'incentivo. Teniamo presente poi che si rivolge soprattutto a due tipologie di imballaggi che sono già ampiamente riciclati, cioè il vetro dell'acqua minerale e il vetro delle bottiglie di birra. Certo, ma quindi non vale per i singoli cittadini, è solamente per i ristoranti? No, non vale per i cittadini, certamente il cittadino che va al ristorante, che usa bottiglie, tra l'altro molti ristoranti lo fanno già adesso, che usano le bottiglie in vetro, e gran parte dei distributori delle bottiglie in vetro poi vengono a riprendersi. Quindi insomma, effettivamente, al di là del fatto che è sempre giusto vedere il lato positivo anche cercandolo con la lente d'ingrandimento, ecco, il vuoto a rendere sarebbe decisivo soprattutto nel combattere l'usa e getta, soprattutto le plastiche, no? Perché a bordo strada, anche nei paesi virtuosi, nei comuni virtuosi come il mio di Capannori, purtroppo si vedono bottiglie di plastica, ogni tanto anche qualche lattina in alluminio, tanti bicchierini di bevande famose di cui non faccio il nome, è lì che dovremmo insistere se vogliamo creare una mentalità, difendere i mari, no? Perché questa storia della plastica negli sta diventando davvero, ma e soprattutto deve essere fatto sui singoli, nel senso che io penso che il ristoratore è un problema che ha già risolto a monte, perché lo sa benissimo che a fine giornata ha 500 bottiglie in vetro, quindi non è che le va a buttare in mezzo alla strada. Invece il problema è il singolo che esce, diciamo, da questo circuito, perché uno ha una singola bottiglia e dice vabbè, che mi frega, la butto qua. Invece se ricevo 10 centesimi in cambio, forse è la volta che decido la mia bottiglia, anche se me la bevo per strada, di entrare in un negozio e riconsegnarla. Certo, voglio dire indirettamente anche il buon ristoratore, per esempio purtroppo si sta diffondendo il costume dei ristoranti che usano la bottiglia in plastica, meglio sarebbe utilizzare l'acqua del sindaco, ci sono tutti questi sistemi di microfiltrazione, certo. Diversi ristoranti lo fanno, però ecco, se ne coglie ancora una volta, diciamo così, l'aspetto per il quale si comincia a parlarne, ecco, prendiamo quello in positivo. Giusto. Noi faremo pressione sui comuni perché comunque convochino, incontrino le associazioni dei commercianti, in particolar modo dei ristoratori e dei bar, per provare insieme ad ampliare, partire da questo, per fare in modo, insomma, risultato. Esatto, che non siano troppo iniziative, troppo spot, sporadiche. Io lo dico anche al ministro Galletti, se ci sta ascoltando, perché so che Galletti ci ascolta sempre, ci ascolterà anche lui. Ci vuole un po' più coraggio, e anche a chi scrive sui giornali, senza voler dire niente, incolpare nessuno, però torna il vuoto a rendere, purtroppo dobbiamo dire che non è che, l'abbiamo detto anche noi, non torna il vuoto a rendere, non torna. Quello che noi, ahimè, un po' io in particolare, un po' di generazione cresciuta, abbiamo sperimentato in tanti modi. Non è previsto. Può darsi che se la sperimentazione va tutto bene, no? Se riusciamo a dimostrare che pur nella piccolezza sono stati raggiunti risultati positivi, può darsi attraverso di lì, la pressione, certo, raccolte certo. di firme, perché voi siete sempre lì, e questo io lo voglio ricordare anche nella nuova stagione. Rossano Ercolini, leader del movimento Zero Rifiuti, lui come è iniziata questo piccolo pezzettino di storia di Rossano Ercolini, mi piace sempre ricordarlo. Un giorno lui è un maestro di scuola elementare, va a scuola tanti anni fa, apre il sacchetto dei rifiuti di fronte ai suoi allievi e dice: che cosa vedete? Rifiuti? No, vedo plastica, vedo la carta, mio papà con la carta ci fa questo, mio papà col ferro ci fa quest'altro. E lì è iniziata la rivoluzione degli zero rifiuti, quasi anticipando quello che adesso si parla tanto dell'economia circolare. No, bisogna dirlo, perché quanti anni grazie, perché in effetti non è una storia prettamente individuale, è una storia collettiva, una comunità. Quanti anni fa? Perché adesso sembra normale, ma quando avete iniziato voi vi dicevano che eravate dei pazzi anarchici, ambientalisti, che volevate solo rompere le scatole. Che anno era? Sì, si può fare, come dite voi e come spesso dico io, anche grazie a questo contatto frequente con voi. Erano anni in cui, insomma, queste battaglie non erano così scontate. C'è una notizia di questa settimana che ti voglio chiedere di commentare, Rossano, che è quella della sentenza di Napoli, della Cassazione, l'hotel napoletano che ha avuto ragione sull'amministrazione pubblica di Napoli, avevano chiesto uno sconto sulla tassa dei rifiuti perché c'era il caos dei rifiuti, cassonetti, stracolmi eccetera, un po' di tempo fa, e praticamente la Cassazione ha detto che se c'è un'emergenza rifiuti tale da far scattare un allarme sanitario, allora il comune, anche se non ha colpe, deve concedere lo sconto del 40% sulla tassa. Ti voglio chiedere che cosa ne pensi di questa notizia, se è una buona notizia, se non si rischia di risolvere tutto con uno sconto, però insomma, che ne pensi? No, diciamo, risponde a quando c'era l'emergenza a Napoli, che per fortuna almeno in quei termini drammatici è stata superata, quindi diciamo dà una risposta a un problema del passato. Naturalmente quando un semplice cittadino, in quel caso un imprenditore che è solo, no, di fronte alla legge, trova riconosciuto il proprio diritto, è una vittoria per tutti, perché non siamo abbandonati, siamo in uno stato di diritto, uno stato civile, quindi è sempre una vittoria dello stato di diritto. Dopodiché molta acqua è passata sotto i ponti, e quello che magari può uscirne rinforzato è l'idea che queste aziende e anche i comuni che si servono delle aziende, dei cosiddetti gestori, no? Coloro che raccolgono e smaltiscono i rifiuti, questa sentenza sottolinea la necessità, tra l'altro prevista nella legge 152 che regola la materia, l'efficienza. Noi dobbiamo pretendere efficienza da parte del gestore, da parte dei comuni ai quali noi paghiamo la bolletta. E quindi, per esempio, se davvero mettiamo al centro il criterio dell'efficienza, perché continuare a pagare la stessa bolletta se un comune è inadempiente al raggiungimento della raccolta differenziata, così come prevede la legge italiana e la legge europea? cominciare anche a dire che quando il cittadino non ha un adeguato servizio moderno rispetto a quelle che sono le attese normative, può anche chiedere uno sconto perché l'efficienza non ha fatto raggiungere alla comunità quel tipo di risultato numerico. Quindi secondo me, io non sono un giurista, quindi non so che spazi aprirà dal punto di vista normativo, ma ne esce rafforzata l'idea dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi ambientali. Il servizio della gestione dei rifiuti è un servizio di rilevanza sanitaria, come si sapeva benissimo a Napoli. Ha fatto bene l'albergatore a dire: non mi ritiravano i rifiuti, li dovevo mettere nei cumuli a bordo strada, perlomeno certo si riconosca l'errore da parte delle autorità pubbliche. Insomma, per semplificare, io ti pago il servizio di raccolta dei rifiuti che fai sotto casa, se il servizio è efficace, funziona bene, ti pago il dovuto, ma se il servizio non funziona, addirittura c'è un allarme sanitario, io non te lo pago. Alla stessa maniera. Non paga pantalone, perché sennò certo, allora il cittadino viene depredato. È chiaro che diventerebbe uno stimolo forte, anche per le amministrazioni che sono sensibili al tema delle entrate fiscali, a migliorare i loro servizi. Certo. Bravissimo. A me sembra proprio questo tipo di messaggio, ci leggo, ecco, al di là poi se farà giurisprudenza o questioni più tecniche. C'è un'altra notizia che ti voglio chiedere di commentare, che è quella venuto fuori ancora una volta: quanto c'è ancora da scoprire sui rifiuti pericolosi che stanno per esempio nel cemento, scarti dell'Enel e dell'Ilva, notizia di questa settimana, nel cemento, l'operazione dell'inquirente di Taranto Araba Fenice. Quanto c'è ancora da scoprire su questo versante, prima che, diciamo, con l'economia circolare venisse in mente di riutilizzare, però in maniera non in quel modo lì, i rifiuti? Ma la partita dei rifiuti, la questione dei rifiuti, finché è rimasta in mano a pochi addetti, ha visto il peggio affermarsi. Nel momento in cui, anche grazie alla nostra idea di rifiuti zero, sono i cittadini che fanno la differenza e la differenziata, non sono le macchine servono, ma serve soprattutto l'informazione civica, le informazioni di dettaglio a dare ai cittadini, si comincia a capire come questa materia deve diventare conoscenza comune. Chiaramente a questi livelli vuole un po' di specialismo. Io ho capito, bisognerebbe entrare all'interno degli atti processuali, ho capito che spesso gli alti forni producono nella fusione producono dei materiali, delle sostanze che effettivamente vengono avviate a certe tipologie di cemento, il cosiddetto cemento Portland, per cui per esempio le famose loppe che sono state tra virgolette incriminate vengono usate perché dal punto di vista chimico-fisico si presentano molto simili al cemento, vengono usate per quei fini, anzi qualcuno dice pure che dà efficienza al cemento che viene prodotto. Si tratta di capire però, un po' come sulle terre di scavo, avete presente quando si fanno le autostrade, certo, sotto attraversamenti ferroviari? Una cosa è ritenere da smaltire, quindi da includere nella nozione di rifiuto. L'azienda ovviamente, se può vendere, non paga, e anzi ha magari un incamerato, un piccolo prezzo che viene con cui viene remunerato questo materiale. Diverso è se deve pagare lo smaltimento, come è avvenuto per esempio per gli scarti dell'industria dell'estrazione petrolifera in Basilicata. E questo è un balletto che c'è costantemente sulle terre di scavo. Insomma, c'è ancora tanto da fare, tanto purtroppo anche forse da scoprire su questo versante, brutte scoperte come quella di Taranto, e anche qualche cosa da aggiustare in termini di apparato legislativo. Sintetizzo, vado veloce, Rossano Ercolini, ti ringraziamo, ti salutiamo. Grazie. Perché andiamo in Spagna, tra l'altro, rapidissimi anche qua, perché sono aperti i seggi, c'è cioè Sergio Nava. Ciao Sergio, buongiorno. Ciao Alessio, buongiorno. Però sta succedendo qualcosa, perché la Guardia Civile sta facendo irruzione nei seggi, cercano di non far votare i catalani, è così? Diciamo che a partire dalle 9 si è messa in moto la macchina, diciamo tra virgolette, se vogliamo usare il termine, repressiva dello Stato spagnolo, che ha letteralmente impedendo di votare. Poco fa qui nella scuola di Carrer Mallorca, dove mi trovo ancora, mi hanno appena detto che non riescono a votare perché a quanto pare ci sono problemi telematici. La Guardia Civile avrebbe bloccato la possibilità di votare, della possibilità insomma di utilizzare la internet e comunque le modalità elettroniche per poter votare, quindi di fatto è tutto paralizzato, mentre arrivano notizie da vari punti di Barcellona, in particolare dalla zona della Sagrada Famiglia, dalla zona centrale del Passeggio de Grazia, che dicono che camionette della Guardia Civil, cioè la polizia spagnola, stanno letteralmente entrando nei seggi e stanno portando via, confiscando le urne. Quindi la situazione, come potete capire, si sta facendo abbastanza tesa, anche perché ci sono code di migliaia di persone. La scuola dove mi trovo io ci sono centinaia di persone. Poco fa sono stato alla scuola tecnica che sta poco più su, all'Hospital Clinic. Di persone che vogliono votare. Persone che vogliono votare, persone che vogliono votare e che dicono all'unanimità, dicono vogliamo esprimere il nostro diritto democratico. Quindi in questo momento potete capire la situazione non è abbastanza tesa, possiamo dire, perché speriamo che si scontrano due mondi. Speriamo che la tensione non vada oltre, perché insomma quello che ci sentiamo di dire, tanto grazie Sergio, ci risentiremo magari più avanti, è che per quanto il governo spagnolo abbia diritto e interesse a depotenziare questo voto, a ricondurlo all'interno di un alveo costituzionale, però certo se ci sono centinaia di persone in fila per i seggi non è che poi con la forza mandarli tutti via, perché questo sarebbe un disastro, sarebbe veramente un disastro. Speriamo che non accada. Sergio, grazie, e noi ci fermiamo per una pausa. 800 24 00 24, cari ascoltatori, torniamo tra pochissimo, cerchiamo anche ancora un personaggio della settimana, il secondo, quest'oggi, a dir la verità. Perché... Che è inossidabile. Che è inossidabile, vai. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua, andiamo con Antonio, che ci chiama dalla provincia di Modena, benvenuto. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Cosa vuole intervenire, Antonio? Allora, volevo intervenire sul personaggio famoso. Della settimana. Della settimana. Sì. Non deve essere per forza allora, famoso, deve essere solo della settimana. Sì, della settimana. Allora, inossidabile significa qualcosa che dovrebbe arrugginire, diciamo così, ma... di fatto non lo fa, e ho pensato a Berlusconi, che nonostante abbia compiuto 81 anni si è ricandidato di nuovo a candidato premier. Corretto, corretta l'interpretazione, corretta anche la notizia. È sicuramente uno che non si ossida, ma non è il personaggio che avevamo pensato. Era un bel trappolone, naturalmente, perché in effetti chi è più inossidabile di lui al momento? Ma c'è qualcuno forse che è più inossidabile di lui? E lo scoprirete se indovinerete il personaggio della settimana. Sandra da Palermo. Buongiorno. Pronto. Benvenuta. Buongiorno. Su cosa voleva intervenire, Sandra? Sulle barriere architettoniche. Controllore dei fatti, dove è accaduto? Racconti. Allora, è accaduto che mi è capitato di dover andare a Catania, sì. Invece di prendere il pullman ho preso il treno, pensando che arrivavo prima, anche perché c'era in quel periodo la deviazione per il crollo del ponte. Sì, famoso ponte. E invece che è successo, Sandra, alla stazione di Catania? È successo che quando sono scesa, gentilmente, anche una, siccome soffro di enfisema, una ragazza gentilmente si prestò ad aiutarmi a farmi scendere la valigia che avevo. Quando sono scesi e sono andati via, e ho visto scomparire tutti. Ho detto, ma ora da dove si prende? Io non capivo, volevo dove andare, non c'era neanche nessuno. È rimasta sola. E poi? Dov'è la barriera architettonica? Dove l'ha trovata? No, aspetti un attimo. Quello ha chiuso il treno, quello che guidava il treno. Ho detto, guardi, come faccio? C'è un ascensore, qualcosa per scendere? Dice, no, lei ora deve scendere. Non si preoccupi, le porto io la valigia. Praticamente devo scendere... Sottopassaggio? Sottopassaggio, certo. Poi salire. Questo era il... Non so il motivo per cui dovevo attraversare questo posto. Perché è pericoloso attraversare i binari. Sì, però dico appunto, non c'era un ascensore. Però ha ragione, Sandra, perché normalmente in tutte le stazioni adesso cominciano a esserci gli ascensori per poter passare dal binario al sottopassaggio. Però altrimenti direi che la gentilezza delle persone che ha incontrato hanno abbattuto le barriere architettoniche che si sono messe sulla sua strada, giusto? No, non c'è più Sandra? Va bene. Benissimo, va bene lo stesso. Vai! Allora, lo abbiamo detto anche nel nostro Sipo 5 delle 5 migliori buone notizie della settimana, l'approvazione della legge Salva Borghi, la legge sui piccoli comuni, un'approvazione bipartisan, una legge votata da tutti che prevede insomma stanziamenti anche per risollevare la vita spesso in questi piccoli comuni che hanno difficoltà per quanto riguarda i mezzi di trasporto, altre questioni, e c'è la questione anche dello spopolamento, e quindi è uno stanziamento di 10 milioni. Stanziamento di 10 milioni, però noi sappiamo che in tanti di questi piccoli comuni ci si rimbocca le maniche anche senza la legge, anche prima della legge, con incentivi per esempio per il ripopolamento di questi piccoli borghi, come è accaduto a Montesegale, provincia di Pavia. Ecco, noi il sindaco Carlo Ferrari, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie. Buongiorno. Allora, voi avete pensato una serie di incentivi, devo dire che sono tanti, alcuni fantasiosi, comunque consistenti, per convincere in qualche modo, no? Le persone, ma anche le giovani coppie, a stabilirsi lì da voi. Quali incentivi, come sta andando, sindaco? Sì, allora sta andando abbastanza bene, perché abbiamo già delle preadesioni su questa iniziativa. Noi siamo partiti appunto dal concetto del ripopolamento dei piccoli comuni. Lei faceva riferimento alla legge che ha licenziato il Senato, di cui noi insomma siamo ben lieti che sia stata approvata. Ricordo anche l'iniziativa della Strategia Nazionale delle Aree Interne, che proprio punta la lente di ingrandimento su questi piccoli comuni. Ricordiamoci che sono 55% del nostro territorio italiano e lì ci abitano più di 10 milioni. Quindi il nostro obiettivo è stato quello, spopolamento, popolazione anziana su questi comuni. Il borgo può avere un futuro se Però ci dica quali sono gli incentivi, sindaco, perché magari qualcuno all'ascolto gli viene voglia perfetto. Di venire lì. Allora, incentivi che riguardano l'agevolazione della casa, quindi si parla di affitto a riscatto con possibilità di accesso ad appartamento, appunto con questa formula chi lo affitta può riscattarlo dopo qualche anno senza perderci l'affitto. Sconti affitto a riscatto, scusi, spieghi meglio, questo è interessante, affitto a riscatto quindi di appartamenti che sono di proprietà pubblica? Sono di proprietà convenzionati, noi sì. Abbiamo fatto un bando e abbiamo selezionato, è tutt'oggi aperto, anche inducendo i privati che hanno una immobili a metterli in immobili inutilizzati, immagino. Inutilizzati. E quindi io vengo, prendo una casa in affitto a riscatto, pago l'affitto per quanti anni? Poi dopo al terzo anno l'acquisto a un prezzo stabilito quando ho stipulato il contratto di affitto, le rate di affitto vengono scontate dall'acquisto della casa. Questa è una cosa interessante. Poi l'altra è lo sconto sugli oneri di urbanizzazione secondari fino all'80%, però noi chiediamo che vengano recuperati gli immobili presenti e non vengano ovviamente costruiti nuovi immobili. Poi ci sono agevolazioni sui servizi comunali, per esempio lo sconto sulla Tari, che è previsto un'esenzione per 5 anni, che è la durata della residenza minima che noi chiediamo alle persone che intendono venire a vivere in un borgo come Montesegale. Ma se uno si fa 4 anni, poi succede che trova lavoro da un'altra parte e va via, gli chiedete indietro i soldi della Tari, come funziona? Allora, il patto di residenza è della durata di 5 anni, quindi una persona deve risiedere a Montesegre almeno 5 anni, perché altrimenti non si crea una... Sì, ma nell'eventualità... Nell'eventualità peggiore, la dipartita, se uno dovesse proprio... Lo valuteremo, se fosse dopo un anno sicuramente sì, dopo quattro anni, lo valuteremo. L'altra iniziativa che mettiamo in campo è il trasporto scolastico completamente gratuito per i prossimi 5 anni. Perché le scuole, anche, sindaco, non sono vicine. Lì. Noi ovviamente siamo un piccolo comune, gestiamo i servizi associati con altri comuni, le scuole sono a 5, 10, 7 minuti, noi mettiamo a disposizione per i bambini uno scuolabus che passa davanti alla casa del bambino e lo riporta a casa in modo gratuito. Poi c'è anche un discorso di agevolazione nel baratto amministrativo. Noi chiediamo a chi intende risiedere da noi e che dà una mano al comune per mantenere, non so, per le manutenzioni ordinarie di spazi pubblici, eccetera, potrebbe avere, può avere, avrà delle agevolazioni sulle tasse comunali. Altre agevolazioni. Insomma, quindi siete attivi su tante cose. Le faccio un'ultima domanda. Ci sono già delle iniziative. Ecco, la domanda di Carlo, ci sono già delle... Questo volevamo sapere, c'è qualcuno che si è fatto avanti? Noi abbiamo al momento quasi 10 richieste di preadesione, quindi le stiamo valutando. Naturalmente alla preadesione poi si andrà con un bando formale, a una richiesta formale, dove al patto di residenza, a tutte queste agevolazioni, ovviamente dall'altra parte ci saranno anche delle richieste da parte del comune, di obblighi per chi viene in agevolazione da parte del comune. Comunque 10 domande, già qualche cosa. Complimenti. Speriamo di concretizzarne qualcuna. Per noi non sono importanti i numeri ovviamente elevati, basta qualche famiglia e dare continuità a questo problema del ripopolamento nei piccoli comuni. Va bene, grazie. 9:46 minuti. Cerchiamo ancora un personaggio della settimana che è inossidabile. Il primo lo abbiamo già assegnato, però oggi è andata bene, cari ascoltatori. Chissà se riuscite in questo scampolo a indovinare anche questo altro personaggio tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, andiamo con Ornella che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo dare il nome del personaggio della settimana. Prego. Che secondo me è Osvaldo Cavandoli, quello che ha creato la linea della pubblicità delle pentole Lagostina che sono inossidabili. La famosa linea. È un genio assoluto della grafica, la sua linea che poi divenne lo spot della Lagostina, un fumetto che ha fatto storia in tutto il mondo. Ma perché ce lo ricorda adesso? Qual è la notizia? La notizia è che oggi il Corriere ne parla, diventerà un museo. Lo studio di Osvaldo Cavandoli. Bella questa notizia, oggi... in effetti, Ornella, però non era lui. È talmente bella che non l'abbiamo scelta. È talmente bella che io quasi quasi glielo darei ad honorem il premio, ma non si può, perché sennò il notaio si arrabbia moltissimo, perché ha colto la parola inossidabile anziché in senso metaforico, proprio così. E in effetti ci stava tutta. Viviana da Bologna, vai, vediamo un po'. Ciao, buongiorno, volevo provare per il personaggio della settimana, sì. Avevo pensato a 29 settembre, la canzone che ha compiuto 50 anni ed è sempre bellissima. Un momento di amnesia, qual è il 29 settembre? Quello di Battisti? Di Primo Gol Battisti. Certo. Pensavi che fosse l'inno che ricorda il compleanno di Berlusconi, tu, Alessio. E Bersani, esatto. No, proprio. Ma scusi, ha compiuto quanti anni questa canzone? 50 anni. 50 anni. Straordinario. In effetti, dalle nostre domande, mie in particolare, avrà capito che... Eccolo. Vedi? Carmelo Lucella è partito. Tac! Ce l'abbiamo, gliela dedichiamo. questi intro lunghi. Certo. È questa. Beh, sì, in effetti. Come dire, è una delle colonne proprio della musica italiana, musica leggera. Sì. 50 anni, non era questo il personaggio inossidabile, però, Viviana. Però grazie di aver chiamato. Anzi, complimenti, complimenti. Parliamo dell'autotrasporto, un settore che sorprendentemente cerca di dare lavoro e sta forse anche dando lavoro a, anche a dei giovani italiani, un settore che ha sofferto negli ultimi tempi di concorrenza straniera, ma per esempio la tecnologia sta cambiando, ci sono evoluzioni, c'è interesse e c'è anche un bando interessante, ce ne parla Andrea Manfron, segretario di FAI Conftrasporto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un bando per fare la formazione di giovani autotrasportatori italiani che voi avete messo lì così e poi vi sono arrivate un sacco di adesioni. Tanto che io vi dico, ma farete anche una seconda edizione di questo bando? Allora, innanzitutto il bando secondo me e comunque anche tutta l'attività e l'iniziativa sono un esempio perfetto di sinergia di tra istituzioni e mondo imprenditoriale, una volta tanto. Sì. Entra perfettamente nella filosofia del si può fare. Bravo. C'è un'iniziativa infatti del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nata sì. nell'albo centrale dell'autotrasporto, e ci sono tutti i soggetti interessati, ci sono i produttori di autoveicoli, di mezzi pesanti, tutte le associazioni di categoria dove fai il protagonista. Ma ci parli però del bando, perché è importante. Io sono un giovane o anche meno giovane aspirante autotrasportatore e so che c'è un bando rivolto a me. Che cosa offrite? Questo è importante. Il bando fondamentalmente nasce ed è indirizzato a giovani tra i 18 e i 29 anni. Sì. Ed è fondamentalmente fatto di due parti, mettiamola così. Una prima parte è un corso abilitativo relativo al rilascio della patente C, nel futuro potrebbe esserci anche la patente E, sempre funzionale evidentemente a portare mezzi pesanti, e in più c'è la cosiddetta CQC, la carta di qualificazione del conducente, che è un'ulteriore, chiamiamola patente professionale, semplifico. E tutte e due le sia la patente C o la patente E la CQC sono funzionali e necessarie per poter fare l'autista professionale nell'ambito dell'autotrasporto. Sono state fatte, il bando ha visto, copriva circa 500 domande sì. per fare i corsi, sono stati fatti 2500 se non ricordo male domande, di cui ben 2200 ritenute idonee. Quindi sicuramente, come dire, al momento andremo a coprire tutte le 2200. Quindi già avete allargato quella che era la platea rispetto a quello che avevate pensato di fare, perché questa cosa, dobbiamo dirlo, ha un costo, dobbiamo ricordarlo a chi magari non lo sa. Assolutamente ha un costo. Quindi voi coprite questo costo, è una buona notizia. L'80% del costo viene coperto. E poi, se ho capito bene, ci sono anche degli stage, cioè la possibilità comunque di fare un primo inserimento lavorativo. Corretto, questa è forse come dire, la conclusione di tutto l'iter, perché poi una volta ottenuta come dire, la patente, l'abilità professionale per poter fare il mestiere di autista professionale qualificato, ci tengo a dirlo, c'è pure un'attività evidentemente presso le aziende, perché l'obiettivo sì. finale è quello di mettere in conto un'esigenza, che è quella delle imprese che oggi trovano carenza, voglio sottolineare, c'è carenza di lavoro da questo punto di vista. E poi i giovani, visto che evidentemente anche da quel punto di vista la disoccupazione giovanile mi sembra uno dei temi politici più importanti. Sì, quindi, lo è. Certo. Noi purtroppo non abbiamo più tempo, perché fra poco ci sarà il giornale radio, gli aggiornamenti importanti dalla Spagna, dove si vota con qualche tensione per il referendum della Catalogna. Grazie Manfron di Conftrasporto, questa comunque era una buona notizia, un bando, e chissà se ce ne sarà un altro, ve lo racconteremo, perché sapete Radio 24 su questi temi vi tiene aggiornata. Ci risentiamo sabato prossimo. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Miriam Lucchetti, Carmelo Loricella oggi in regia. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao e buona domenica da Carlo Gabardini. E a chi ci ascolta in podcast.